Roma Trastevere, 5 ottobre 1966. Caro Eleuterio, la casa che mi vide in fasce oggi mi vede in lacrime. Il nostro battibecco di ieri mi ha lasciato scossa e agitata. Così come mi lasciano scosse e agitate i primi piani televisivi di Ernesto G. Laura, ai quali non riesco proprio ad abituarmi. Dalla finestra vedo il Lungotevere e penso che il Lungotevere, in fondo, non è che la via del mare e del fiume. Penso anche che sei uno stupido, Eleuterio, se pianti su una storia da matti solo perché ho cambiato posto all'enciclopedia. Sempre tua. Roma Parioli, 6 ottobre 1966. Cara sempre mia, la casa che ti vede in fasce e oggi ti vede in lacrime sta molto peggio di me. Ti vede. Hai fatto benissimo a tornare da tua madre. Una permanenza con lei ti allenerà. Dopodiché riuscirai a minimizzare le reazioni provocate dai primi piani di Ernesto G. Laura. Sarà anche stupido litigare perché hai cambiato posto all'enciclopedia, ma secondo me un'enciclopedia da 500.000, quando non sta nell'apposito scaffale, non sta al posto giusto. Ciao. Ho scritto. Tua madre ti ha sempre chiamata Angelo. Ha ragione. Tu sei il suo Angelo Lombardi. Roma Trastevere, 7 ottobre 1966. Caro Eleuterio, gatto, l'accrescitivo gattone potrebbe suonare alle tue orecchie come un vezzeggiativo e io non accrescendo non vezzeggio. Credo che mia madre non stia molto bene. Passeggia per il soggiorno pronunciando con sempre maggiore convinzione il vocabolo deficiente. E io non me ne spiego la ragione. Ah sì, me la spiego! Nel soggiorno c'è una tua fotografia. Guardo fuori, in alto. Ci sono tante nuvole nere. E io penso che le nuvole nere sono le pozzanghere del cielo. Sì, forse l'enciclopedia sarebbe dovuta restare nello scaffale apposito. Ma che potevo fare? La storia dell'arte era molto più pesante e non avrei mai avuto la forza di trasportarla di là. Sempre tua. Roma Parioli, 8 ottobre 1966. Inimitabile sempre mia. È inutile. Più di 3 giorni senza di te non resisto. La tua assoluta mancanza di cervello, che traspare evidente da ogni tua espressione, mi manca. E mi viene così a mancare il costante motivo di rancore verso tua madre. Ho tentato di sostituire la tua vacuità ascoltando una radiocronaca diretta di Paolo Rosi, ma anche se può sembrare incredibile, hai vinto tu. Torna, anche perché non sto bene. Uno strano senso di freddo umido mi assale ogni volta che mi corico. Ciao. Ho scritto. Non sto male. La portinaia ha scoperto che il senso di freddo umido che provavo nel coricarmi era determinato dall'acqua che, filtrando da sotto la porta del bagno, era arrivata all'altezza del letto. Eleuterio. Roma Parioli, 8 ottobre 1966. Caro Eleuterio, micione, sono di nuovo vicino a te, che non sei vicino a me perché sei fuori. Ma tornerai presto a casa. Ho rimesso l'enciclopedia al proprio posto e penso che un'enciclopedia non è altro che un professor Cutolo in 10 volumi. Sto pensando anche al futile motivo per il quale litigammo giorni fa. Era uno dei nostri calmi dopo cena. Tu leggevi e io ero lì che facevo le parole incrociate. Eleuterio? Sì? Che fai? Leggi, Eleuterio? No, mi sto facendo la barba. Anni qua ti fai la barba in sala da pranzo e poi con un libro in mano. Mi stupisci, caro. Tu no, tu non mi stupisci. E vorrei tanto essere stupido da una tua domanda, se non proprio intelligente, nemmeno definitivamente stupida. Ma che cosa vuoi che faccia uno che sta seduto in poltrona con un libro in mano? Che ne so, ieri dal dentista c'era uno seduto in poltrona con un libro in mano, ma non leggeva, aspettava. Vedi, cara, se l'autovedovanza non venisse chiamata uxoricidio e punita dalla legge, io sarei vedovo e felice. Poverino, mi secca l'idea di una tua vedovanza. Ho l'impressione che dovrei collaborare alla cosa, e nemmeno spontaneamente. Assassino! Eleuterio, telefona alla polizia, di che abbiamo un assassino in casa! Stai calma, ti difenderò io facendo uno sforzo su me stesso. Posso ricominciare a leggere? Certo, ma prima, per favore, dimmi la cosa che volevo sapere quando ti ho chiesto se leggevi. Che cos'è? Vorrei sapere in quale fiume fu annegato San Giovanni Nepomuceno. Deve essere un fiume di 7 lettere. Ma cosa vuoi che ne sappia io di Nepomuceno? Prendi l'enciclopedia e leggi la lettera N. Non ho voglia di andare in cucina. In cucina? Sì, in cucina, a consultare l'enciclopedia. Mi hai portato l'enciclopedia in cucina? Beh, non potevo certo portare la cucina verso l'enciclopedia. Dovevo pulire la parte alta della credenza e non ci arrivavo. Allora, ho messo in terra 4 volumi, poi sopra 3 volumi, poi 2, poi 1... E sopra l'ultimo volume ero all'altezza giusta. 4 più 3 fanno 7, più 2 9, più 1 10. Tutti e 10. Ma dico, sei impazzita! 500.000 mi costa quell'enciclopedia! Me lo dici anche! Spendi 500.000 per comprare 10 libri che non leggi! Ti avessi mai visto leggerne uno? Come la storia dell'arte. 12 volumi mai aperti. Avanti! Che cosa c'è scritto nel 4° volume? Che sei un'oca. E tu sei un... Come definiscono quelli che si divertono al dolore degli altri? Un sadico. Ecco, sei un sadico. E aveva ragione mia madre. No, non può essere. Non so a che cosa ti riferisci, ma tua madre non può comunque avere ragione. Una donna che dimentica di mettere nel cranio di sua figlia quel minimo di materia grigia necessaria a non farle usare un'enciclopedia come scaletta da cucina non può avere ragione. E invece sì. Avrei dovuto sposare il tenente dei carabinieri, che adesso è colonnello. Così adesso sarebbero in due ad avere i baffi, lui e tua madre. Mia madre non ha i baffi, solo una leggera peluria. E poi la donna baffuta è sempre piaciuta. Solo al grande Barnum, cara. E se non rimetti immediatamente tutti e 10 volumi nello scaffale... E non alzare la voce, altrimenti torno da mia madre. E tornaci. Ci torno, anzi, ci sto già tornando. Ricordo perfettamente perché litigammo quella sera, ma tra poco, quando rientrerai, farò finta di niente. Ciao. Ciao. Ti aspettavo facendo parole incrociate. Brava. Mi sai dire, per favore, in quale fiume fu annegato San Giovanni Nepomuceno? Deve essere un fiume di 7 lettere.